e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Nonostante lo sciopero della TM, la Nico mi è arrivata dopo aver fatto decine e decine di chilometri oggi su Milano. 12.000 passi. Perché praticamente pensavi che lo sciopero lo annullassero, no? Sì, per me. E invece niente da fare, cara. Oggi c'è il salone del mobile, quindi quando c'è lo sciopero, quando si possono fare i danni più forti. E poi sai cosa? Poi mi sono venuti dei pensieri sui maratonetti, ma ve lo racconto dopo. Ti è piaciuta la foto che ti ho mandato stamattina della mia staffetta di domenica? Siamo troppo belli, era proprio multietnica, ne sono molto contenta. Magari se mi va la faccio mettere a Marco su Facebook. Dai, e poi la foto della mia staffetta di domenica. Allora, per quello che riguarda i denari, io oggi parlo di IVA, chi non l'ha versata nel 2014, attenzione che arriva il richiamino dell'Agenzia delle Entrate. Nella seconda parte del programma parlerò invece dei controlli da fare nei nostri palazzi per l'ascensore, attenzione che arrivano delle novità. E io parlo di un inquilino, un nostro inquilino. Un condomino? Sì, dobbiamo convivere con lui e far sì che lui insomma non decida sempre al nostro posto. E parliamo chi è di microbiota, questo disturbatore. Da cui dipende la nostra salute, il nostro benessere, ma anche noi possiamo fare la nostra parte. Partiamo va con l'IVA. Non con Iva Zanicchi. Partiamo però anche con la borsa, un attimino la racconto. Giornata proprio stabile oggi fra listini continentali. Milano più 0,04%, i migliori titoli stamattina Azimut più 2,51%, il gruppo del risparmio gestito che va sempre particolarmente bene sia nei conti, si sta espandendo moltissimo in Australia, ha annunciato il riacquisto di un prestito obbligazionario e poi siamo alla vigilia anche della partenza del Salone del Risparmio, dove saremo anche noi regine. Murate vive lì dentro per 3 giorni. Nicoletta, siamo lì un sacco di ore. Siamo ben contente perché abbiamo un pubblico di fedelissimi affezionati, per cui saremo là da martedì prossimo. CNH Industrial più 2,21, STM più 1,62, Saipem più 1,31. Non guardarmi così che mi viene da ridere. I cali più forti di oltre un punto, Leonardo, Unipol, Campari e Fiat Chrysler. Per la borsa questo è tutto. Andiamo al primo approfondimento di oggi. Allora, nel corso di questo mese di aprile, come ha comunicato l'Agenzia delle Entrate, partiranno circa 30.000 avvisi a contribuenti che non risultano in regola con il versamento dell'IVA. Attenzione. Comunicazioni che sarebbero la conseguenza di incongruenze fra quanto dichiarato dai contribuenti come giro d'affari, fatturato, e quanto rilevato invece attraverso i dati dello spesometro. Era tanto che non ne parlavamo di questo tema, che all'epoca, quando fu lanciato, aveva scatenato le ire dei nostri ascoltatori che insieme al redditometro appunto si sentivano controllati dal fisco, troppi incroci di dati, il fisco non deve sapere fino a questo punto tutto quello che faccio, eccetera. Adesso ne riparleremo. Questa del controllo nuovo dell'Agenzia delle Entrate è una notizia che forse avete già sentito e vi ha messo qualche preoccupazione. Allora noi oggi cerchiamo di fare un po' di chiarezza con una nostra amica, Rosanna Acerno, commercialista, esperta di tematiche tributarie e fiscali per il Sole 24 Ore. Ben ritrovata, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, 5 minuti di tempo per fare l'ABC di questa operazione dell'Agenzia delle Entrate. In primo luogo, di che cosa si tratta? Che cosa sono questi alert, questi avvisi, dottoressa Acerno? Intanto diciamo che sono delle comunicazioni che a me piace definirle di bon ton, cioè sono delle comunicazioni che in verità fino a pochi anni fa l'Agenzia non inviava, e adesso le invia semplicemente per promuovere l'adempimento spontaneo. Cioè, quando riceviamo una di queste comunicazioni, tra virgolette, dobbiamo capire che forse ci siamo dimenticati, abbiamo quindi omesso di dichiarare in questo caso dell'IVA, che risulta invece da noi incassata, perché l'Agenzia delle Entrate appunto attraverso questo incrocio di dati ha rilevato delle differenze. Ecco, quindi è un avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate che ci richiama un po' all'ordine, ci dice andate a fare un controllo, non significa un'automatica sanzione da parte del fisco, dottoressa Acerno, quindi chiariamolo subito. In verità più che un avviso bonario, perché noi tecnici noi sappiamo che l'avviso bonario è un'altra cosa, un atto impositivo, esatto, è un atto successivo impositivo. Qui non c'è stato ancora nessun accertamento, è solo un avvertimento con cui l'Agenzia delle Entrate dice: guarda, mi risulta questa differenza, Poi valuta tu se regolarizzare spontaneamente questa differenza oppure magari ti presenti in ufficio o contatti comunque l'ufficio per segnalare delle anomalie che si sono Chiaro. Verificate e quindi che tu hai ragione. Senta, si può avere un'idea di chi potrebbe ricevere questa comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, professionisti, partite IVA in genere? Ci può fare un paio di esempi concreti tanto per intimorire ancora un po' i nostri ascoltatori? Sì. Trattandosi di alert, quindi comunicazioni relative all'IVA relativa all'anno 2014, quindi potrebbero essere destinatari di queste comunicazioni tutti i soggetti titolari di partita IVA che nell'anno di imposta 2014 hanno fatto delle operazioni, quindi ad esempio cessioni di beni o acquisti di beni o di servizi. E quindi tutti coloro che erano, come dire, anche obbligati al cosiddetto spesometro. Ecco. Possiamo dire professionisti, lavoratori autonomi in genere, titolari di reddito d'impresa, quindi imprenditori, ma anche proprio le società. E cosa vuol dire essere obbligati allo spesometro, dottoressa Cerno? Lo spesometro, come giustamente diceva lei, è un adempimento che ha fatto tanto discutere e anche quest'anno fa ancora discutere, perché in verità è stato sostituito. Si tratta di una comunicazione telematica che fino all'anno scorso era annuale, adesso è diventata trimestrale da quest'anno. È una comunicazione con cui tutti i soggetti IVA sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute proprio rilevanti ai fini IVA. Quindi tutte le fatture che sono state emesse oppure ricevute o ancora incassi o acquisti fatti di importo non inferiore a 3.600 euro, anche se non rilevanti ai fini IVA e quindi non fatturati. Allora, come arriveranno queste comunicazioni delle entrate per posta cartacea? Che cosa dobbiamo sapere per decifrare questa comunicazione e metterci subito in regola? Come dicevo, essendo i destinatari tutti titolari di partita IVA, in realtà sono tutti anche soggetti all'obbligo di tenere una posta elettronica certificata. Quindi l'agenzia spedirà queste comunicazioni via mail agli indirizzi di posta elettronica certificata, proprio per diciamo informare tempestivamente il contribuente a mettersi in regola. Chiarissimo. Senta, abbiamo detto già all'inizio, fra un po' la devo salutare in un minuto di tempo. Abbiamo già detto che queste comunicazioni riguardano l'anno 2014. Dall'anno prossimo, secondo lei, ci sarà un'altra campagna di avvisi di questo tipo? Riguarderà per esempio una platea più ampia? 30.000 avvisi, secondo lei, sono tanti, pochi? Ma in realtà non sono tantissimi, perché la platea comunque delle partite IVA è molto estesa. Io penso che sono campagne che servono comunque a, come dire, possa favorire proprio l'adempimento spontaneo. Cioè, oggi tutti i titolari di partita IVA sanno di essere controllati proprio grazie a questo incrocio di dati. Quindi veramente si può trattare in questo caso di dimenticanze e non vere e proprie omissioni. Quindi attraverso questi controlli si può poi fare un ravvedimento. Quindi voglio ricordare solo che una volta ricevuta questa comunicazione è possibile regolarizzare attraverso il ravvedimento, se si pensa appunto di aver sbagliato, di aver commesso questo errore, pagando la sanzione che di solito è del 30% relativamente all'IVA non pagata, nella misura ridotta di un sesto. E quindi del 5%. Grazie a Rosanna Cerno. Se necessario ritorneremo su questo argomento. Adesso subito a sentire il traffico. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Cuore e denari. Invece per la rassegna stampa della salute vi porto in Florida e precisamente a Orlando, dove al meeting della società di endocrinologia è stato presentato uno studio che potrebbe fornire una terapia innovativa dell'obesità. Come? Semplicemente aiutando il microbiota, quello che un tempo veniva chiamato flora intestinale, a ritrovare l'equilibrio perduto. Infatti la ricerca ci racconta che nelle persone obese alcune specie batteriche risultano particolarmente abbondanti, mentre altre sono eccessivamente scarse. Bene, questo disequilibrio influisce sul cervello, che con il microbiota, lo sappiamo, ha una relazione molto stretta, causando segnali alterati relativamente alle sensazioni di appetito, sazietà, pienezza. Ma mi fermo qui perché in linea con noi abbiamo il piacere di avere il medico che ha condotto lo studio, il professor Livio Luzzi, che è responsabile dell'area di endocrinologia e malattie metaboliche al Policlinico San Donato ed è ordinario di endocrinologia all'Università degli Studi di Milano. Professor Luzzi, buongiorno e grazie per essere con noi a Cuore Denari. Buongiorno a voi. Come ha detto, il microbiota è assolutamente fondamentale per il nostro benessere. Questa ricerca ormai dura da circa 3 anni al Policlinico San Donato, è stata finanziata interamente dal Ministero della Salute italiano e ha lo scopo di testare una terapia innovativa non farmacologica per la perdita di peso e per la cura quindi dell'obesità. Questa terapia consiste in una stimolazione magnetica transcranica senza assolutamente l'impianto di elettrodi o strumentazioni, semplicemente col posizionamento di un caschetto, un semplice caschetto tipo quelli che si usano per andare in bici, per andare in motorino, per andare in bici anche, sì, è un caschetto molto leggero, tramite il quale si stimolano delle regioni precise del cuoio capelluto che corrispondono a un'area abbastanza ben delimitata del nostro cervello che si chiama corteccia prefrontale e che è l'area della volontarietà, quella che ci spinge a fare o non fare delle determinate azioni, tra cui il mangiare. L'idea di utilizzare questa metodica per l'obesità è venuta dal fatto, questa qui è una metodica che è in uso da una decina d'anni ormai dai neurologi, da parte di ambienti neurologici, per curare sia forme psichiatriche come la depressione maggiore che forme di dipendenza da fumo, per esempio, piuttosto che dipendenza da alcol, dipendenza anche da droghe, eccetera. Il meccanismo della dipendenza è esattamente lo stesso in tutti i casi. L'obesità è una dipendenza da cibo. Questa è stata la nostra, invenzione, la nostra idea innovativa, considerare la possibilità di utilizzare questa metodica in una situazione di dipendenza da cibo. Quindi abbiamo iniziato a studiare una serie di pazienti e abbiamo verificato l'efficacia, quindi questa metodica funziona. Ovviamente abbiamo anche un gruppo di controllo che cosiddetto placebo, quindi certo, il gruppo di controllo che fa tutto lo stesso trattamento, la segue la stessa dieta, eccetera, ma perde meno peso in modo significativo o non perde peso affatto. Il trattamento dura 5 settimane e adesso entra in gioco il microbiota tra poco. Che è il secondo cervello, professor Luzzi. Il secondo cervello, esattamente, ed è in stretta correlazione col nostro cervello tramite una serie di segnali sia ormonali che originano dal cervello, che originano dall'ipofisi, che è quella ghiandola endocrina localizzata alla base del cervello, e ci sono anche dei segnali in senso contrario che originano dal nostro intestino e che raggiungono il cervello. Quindi è proprio un circuito bidirezionale di segnalazione. Questo è stato già dimostrato da diversi anni. Ora, qual è stata la scoperta più interessante del nostro studio? Il trattamento dura 5 settimane, sì, quindi sono sessioni di circa mezz'ora di stimolazione magnetica 3 volte alla settimana, quindi per 5 settimane sono 15 sessioni. Sempre col caschetto, professore. Dopodiché i pazienti vengono seguiti nel tempo con la dieta e adesso siamo arrivati a seguirli anche fino a un anno. Ebbene, la cosa particolarmente interessante è che dopo 6 mesi continuano ancora a perdere peso e continuano ancora ad avere meno fame. Quindi abbiamo iniziato una serie di, chiamiamoli, sottoprogetti, che poi probabilmente non sono dei sottoprogetti, potrebbero rivelarsi dei progetti fondamentali, principali, tra cui questo del microbiota, per spiegare l'effetto a lungo termine. Quindi perché se noi sospendiamo il trattamento dopo sole 5 settimane... Il dimagramento continua. Continua. Allora, quello che abbiamo dimostrato preliminarmente, perché abbiamo studiato 14 pazienti finora, raccogliendo il campione di feci prima e dopo il trattamento di 5 settimane e andando a... misurare tutta la, appunto, quella che lei giustamente ha definito inizialmente flora batterica intestinale, quello che abbiamo dimostrato è che all'inizio del trattamento, all'inizio delle 5 settimane, si aveva una pattern, diciamo, si aveva una modalità di flora batterica alterata, simile a quella del soggetto obeso. Dopo 5 settimane si ha una tendenza alla normalizzazione, dopo sole 5 settimane, nel successivo campione raccolto, la flora batterica intestinale torna in equilibrio. Diciamo quindi, che quindi la flora intestinale, o il microbiota, per usare un termine più attuale, sta meglio, supera questa situazione di disequilibrio, quindi manda a sua volta dei segnali al cervello che sta in su, e i due vivono felici e contenti e il peso si normalizza. È questa la nostra ipotesi. Ora dovrà essere confermata aumentando innanzitutto la numerosità del campione, certo. Del campione, e poi approfondendo con dei progetti ad hoc dove verranno dimostrati vari step proprio anche a livello cellulare. Intanto, professore, complimenti, come a dire, lavori in corso. Torneremo su questo caschetto, che è capace, appunto, con questa tecnica assolutamente non invasiva, di modificare il microbiota e quindi riportarlo in equilibrio. E, professor Luzzi, intanto grazie per essere stato con noi, grazie per la sua chiarezza. Grazie a voi, arrivederci e buona giornata a tutti. E nell'attesa che il professor Luzzi lavori per noi col caschetto col microbiota, noi poi parleremo tra poco di microbiota. Continuiamo con consigli, indicazioni, raccomandazioni. Lo sai che il mio è diverso dal tuo? È diverso da quello di Carmelo? E probabilmente quindi per tenerlo in equilibrio e buono dobbiamo fare delle scelte differenti. Sono un po' schizzinosi, insomma, questi microbioti. Scelgono anche il corpo in cui abitare? No, sì, abitano in tutti noi, però hanno dei gusti un po' particolari, perché Bene. Sono condizionati da una serie di fattori che noi scopriremo con la nostra prossima esperta. Ma poi che cosa esperta. Fa? Va su e giù come l'ascensore? Sì, io la vedo. O sta lì tranquillo e fermo? Ti piacerebbe avere un ascensore per risalire lungo il tubo digerente dove c'è questa popolazione di microorganismi. Ma quante ne sai? Andiamo a sentire il giornale. Dai, radio, è meglio. Dai. Il segnale orario vi è offerto da... Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. A Vinitaly, padiglione 3, trentodoc.com. State ascoltando un programma offerto da... Danacol, grazie agli steroli vegetali, riduce il colesterolo fino al 10% in 3 settimane. Cuore e denari. Libero di essere me stesso, libero di camminare, andare in giro, puoi mostrare a tutti quanti la mia pancia. Eccoli, torniamo alla pancia, ci occupiamo del nostro microbiota e quindi di quell'insieme di microorganismi che sono alcuni miliardi, Deborah, davvero? In prevalenza Mamma batteri, mia. Che sono localizzati nel tubo digerente che un tempo chiamavamo flora intestinale. Bene, negli ultimi tempi è sotto la lente dei ricercatori che hanno scoperto attraverso numerosi studi che questa sorta di superorgano è fondamentale perché ha un ruolo chiave nel mantenimento delle buone condizioni di salute, ma ha anche un ruolo di prevenzione nei confronti di tante malattie, dall'obesità, ne abbiamo parlato con lo studio del professor Luzzi, al diabete, ma sembra che anche il microbiota sia capace di condizionare i nostri stati emotivi, il nostro umore. Allora, teniamolo da conto. Ci aiuta una grande esperta, la dottoressa Beatrice Salvioli, gastroenterologa Humanitas e ricercatrice all'Università di Bologna, che è tornata a trovarci. Meno male, eh? Meno male a tutti. Allora, dottoressa Salvioli, quante ne fa? Non si muove foglia senza che il microbiota non voglia. Esatto, ne fa più di Carlo in Francia. Diciamo che il microbiota oggigiorno è considerato il vero protagonista nel nostro organismo. Perché? Perché innanzitutto è costituito non solo da batteri, ma anche da virus, miceti, funghi, per cui c'è una popolazione dentro di noi che nemmeno lontanamente riusciamo ad immaginare. Chiaro che noi la chiamiamo flora batterica perché i batteri sono quelli più conosciuti. Allora, essendo, come ha detto giustamente lei, in una quantitativa assimilabile a miliardi, voi dovete pensare a avere questo organo, questo microbiota che pesa come quasi come il fegato, quasi dagli 800 grammi a un chilo. Quindi un chilo del nostro corpo è fatto di batteri. Caspita, quindi, e questi batteri, almeno lo studio e le conoscenze di questi di questo super organo potrebbero rivoluzionare i concetti di salute e i concetti di malattia, dottoressa Salvioli, perché sta cambiando un po' tutto. È un po' una rivoluzione. Molto e molto velocemente. È chiaro che purtroppo non siamo a conoscenza del 100% di queste popolazioni microbiche, quindi diciamo che le nostre conoscenze sono aumentate negli ultimi anni, ma si attestano sempre intorno al 60%. C'è ancora molto disconosciuto, però riusciamo già a vedere delle connessioni molto importanti, e poi se parliamo di pancia, connessione tra pancia e cervello. Quindi il nostro secondo cervello, di cui ne abbiamo parlato tante volte, è proprio costituito da questi batteri. Ora, i batteri non sono solo nella pancia, ma sono sulla cute, iniziano in bocca a essere presenti e lungo tutto il tratto digestivo fino alla fine. Ecco, e così l'abbiamo localizzato. Intanto, se volete localizzarvi, 800 24 00 24, per intervenire in diretta, per raccontare anche le vostre ricette, le vostre storie, come che rapporto avete con il vostro microbiota, ma soprattutto come ve lo immaginate. La dottoressa Salvioli l'ha localizzato, parte dalla bocca e va giù fino al... concentrazione maggiore è a livello del colon, quindi del grosso intestino, e poi lì vengono effettuate una serie di funzioni molto importanti per tutto il nostro organismo. Io lo immagino come un grande vivaio dove ci sono specie differenti, ma dottoressa Salvioli, mi piacerebbe sapere a quale immagine lo associano gli amici che ci stanno ascoltando. Andiamo un po' di immaginazione, proviamo a inventarcelo, a visualizzarlo, forse anche questo aiuta a prendercene cura, anche perché, come ci ha anticipato la dottoressa Salvioli, è un po' il regista della nostra salute, dalla sua salute, dal suo equilibrio dipende il nostro benessere. Essere, e non solo quello fisico, ma le ricerche ci dicono anche quello psichico, proprio per via di quella stretta relazione a cui lei faceva riferimento e che ci piace ricordare, tra pancia e cervello. Esatto, tutto nasce dal fatto che questi microorganismi sono dei mediatori, cioè mediano le informazioni che l'intestino dà e vanno su al cervello e viceversa, cioè mediazioni che vanno dal cervello alla pancia. Tenga presente che le funzioni principali di questi microorganismi sono sul sistema immunitario, quindi se abbiamo una buona flora batterica in equilibrio riusciamo a sconfiggere delle malattie. Perché? Perché questi batteri impediscono l'invasione degli agenti nocivi, quindi quelli che noi chiamiamo i patogeni, quelli che ci fanno quelli cattivi. Male, quelli cattivi, e poi regola il metabolismo, quindi da qui, come giustamente diceva lei, metabolismo negli obesi, nei diabetici, quindi metabolismo degli zuccheri, regola la digestione e non ultima appunto le ultime ricerche dicono che influenza il nostro comportamento. Infatti noi diciamo spesso noi siamo quello che mangiamo. Mm-hmm. Perché anche dal tipo di alimentazione, e sono degli studi interessantissimi, il nostro tipo di comportamento può variare e anche certi tipi di insonnia. Dai, allora 800 24 00 24, se volete saperne di più. Intanto leggo da Twitter: il mio microbiota mi odia, diverticolite acuta troppo spesso, aiutatemi, dottoressa Salvioli. Però se lei non si aiuta da sola, la signora fa fatica, perché il microbiota è il nostro coinquilino. Sì. Noi gli diamo tanto affetto, gli diamo una casa, perché questi batteri senza... loro vivono senza ossigeno, se sì. vengono messi fuori muoiono tutti, per cui noi gli diamo questo ambiente buio, però al caldino, loro stanno bene, ci danno qualcosa in cambio, ma se noi li trattiamo male, e come li trattiamo male? Quando mangiamo male, quando facciamo le cose con troppo stress psicologico, quando prendiamo troppi farmaci, troppi antibiotici, quindi viene maltrattato e lui ci ripaga in questa maniera, quindi fa venire delle infiammazioni. Adesso oggi parliamo di colon, ma sono infiammazioni anche in tutto l'organismo. Per cui diciamo che dobbiamo conviverci, ma trattarlo bene. E allora lei ci dirà anche se ci sono degli alimenti che aiutano a tenerlo buono, perché è molto sensibile alla nostra alimentazione, ma a parte che molti ascoltatori ci stanno scrivendo che fa un po' impressione pensare di avere un chilo di microorganismi in pancia, ci sono degli esami che permettono di valutare la salute del microbiota. Io leggendo e anche dall'intervista del professor Luzzi abbiamo capito che, come succede in economia e in finanza, anche nel microbiota la diversificazione porta vantaggi. Ah, ottimo. Perché, porta molti vantaggi. Ecco, quindi sì. dobbiamo avere un microbiota dove sono presenti tante diverse specie di microorganismi e questi devono vivere in pace tra loro. Esatto, corretto? Anche perché è stato dimostrato che nelle malattie ci sono meno specie batteriche. Teniamo presente che ci sono migliaia di specie e nelle malattie appunto sono ridotte, quindi viva la diversificazione e questi batteri ovviamente possono essere riscontrati nelle feci, che è l'esame che probabilmente si riferiva il dottore. Sì, sì, ci sono dei kit in commercio, però non sono, innanzitutto non sono ancora accurati nella diagnosi, perché non si sa totalmente, come dicevo, certo. prima, della popolazione. Secondo, non vengono utilizzati nella pratica clinica, sono ancora molto costosi, ma il terzo punto più importante è chi è che riesce ad interpretarli veramente in maniera adeguata e professionale. È molto difficile. Quindi andiamo... Quindi allora un po' di strada ancora c'è ancora da fare, ma soprattutto dobbiamo ricordare che, come anticipavamo, dottoressa Salvioli, il mio microbiota è diverso da quello di Deborah, da Carmelo e dal suo, anche se lei fa la gastroenterologa. Quindi il dovrebbe, suo è più bello, però il suo, come la dottoressa Luisa, Salvioli dalla provincia di Venezia, che ne ha ancora un altro diverso dal nostro. Buongiorno. Buongiorno, ci dica Luisa. Senta, io... No, dovrebbe spegnere la radio, poi la riaccende. Allora ci scrive una mail, Luisa. Se ha una domanda veloce. Allora sì. Faccio una domanda veloce. Sì. Mi spieghi, cioè io soffro di melanosi, di stipsi e ho tanti problemi con questo microbiota, che in questo momento, per esempio, ho tanto mal di pancia, perché basta mangiare una zuppa di zucca che mi farebbe effetto, diciamo, e soffro di dolori, di crampi, di... È una cosa che mi porto dietro per cure medicinali, perché prendo antidolorifici e favoriscono... Insomma, certe... il microbiota di Luisa sarebbe da strozzare, dottoressa. Il problema è che poi noi, allora, parliamo di microbiota, sappiamo che nel microbiota ci sono i batteri. Chi dice batteri, allora arriva poi subito all'associazione con i probiotici, con i fermenti lattici. Esatto. Perché pensiamo che prendo un po' di i probiotici e prebiotici, così il vivaio, un po' come quando diamo, non so, del concime, si tira su. In realtà, proprio perché siamo uno diverso dall'altro, quello che può fare male a me è diverso da quello che può fare male a Luisa, che mi sembra abbia un problema che diventa sempre più complicato perché si mettono in atto tante strategie senza fare prima una diagnosi. Allora, ci guida passo passo, così poi... Sì, nel caso della signora ormai si è instaurato un circolo vizioso. Lei ha parlato di melanosi, che è questa colorazione nerastra che ha il suo intestino quando si fa l'endoscopia, perché si vede che ha assunto nella sua vita molti lassativi, quelli, diciamolo, quelli irritanti, che rilasciano questo pigmento scuro. Niente di importante, però comunque è un intestino che non funziona più, quindi lei è costretta a prendere farmaci. I farmaci alterano la flora batterica e quindi si crea questo circolo vizioso. È chiaro che noi pensiamo adesso, diciamo, non c'è problema, prendiamo i probiotici, quindi i nostri fermenti lattici, andiamo in farmacia, ne prendiamo di un tipo, intanto ci fa bene. No, sfatiamo il mito che innanzitutto non tutti i probiotici sono uguali. E secondo, ci sono certe persone, sono sicuro che fra gli ascoltatori ce ne sono tante, che non li tollerano proprio. Loro dicono: mi fa quasi peggio. Perché? Perché i probiotici devono avere determinate caratteristiche. Innanzitutto caratteristiche proprio di come è stato confezionato, quindi la sicurezza di capire è veramente quello che dice l'etichetta, quello che ho dentro, e la stabilità. Lei tenga presente, Nicoletta, che quando noi assumiamo questi probiotici c'è l'acidità, l'acido dello stomaco, che distrugge se queste molecole non sono protette. Per cui è davvero tutto quello che viene dichiarato nell'etichetta, questi miliardi di batteri arrivano direttamente nel colon o vengono dimezzati? Ci sono stati degli studi che hanno fatto vedere che il 50% dei prodotti che sono sul mercato non contengono assolutamente nulla. Quindi bisogna stare sempre molto attenti anche a rivolgersi al medico specialista. Che se abbiamo bisogno del probiotico, ci consiglia quello giusto, perché ormai gli studi sono talmente raffinati che sappiamo che i probiotici non sono tutti uguali. C'è il probiotico ideale per la situazione. Ancora lontani, lontani da quello che sarà il futuro. Noi adesso abbiamo un assaggio di quello che possiamo fare con i probiotici, ma secondo me in futuro veramente avremo delle sostanze. Eccolo ad hoc. Qua. Eccolo qua, lo aspettavo e ringrazio Maria Rosaria. Cosa dice? È il kefir, assumo il kefir tutti i giorni, faccio bene o bisogno ogni tanto sospendere? Così chiediamo intanto alla dottoressa di parlarci del kefir, ma anche degli alimenti, perché abbiamo parlato di probiotici, ci sono anche i prebiotici, le fibre, le verdure. Quali sono gli alimenti che fanno bene al nostro microbiota? Partiamo dal kefir, dottoressa Salvioli. Il kefir Salvioli. Viene sempre fuori alla sempre. Fine. Quando c'è lei c'è il kefir. Viva il kefir. Il kefir è un alimento che viene originario dai paesi caucasici. Sì. Era chiamato l'elisir di lunga vita perché è una miscela di fermenti lattici, di batteri vivi che possono essere preparati con il latte di pecora, di capra o latte vaccino, e quindi anche per chi ha l'intolleranza al lattosio si possono trovare i tipi che vengono digeriti bene, e in effetti è un ottimo adiuvante nei nostri alimenti, quindi preso quotidianamente secondo me è un'ottima abitudine. Se il farlo continuativamente o a cicli dipende un po' anche dalla persona, dalla disponibilità. Il kefir si può comprare già fatto oppure farlo a casa. Detto questo, i cibi, noi dobbiamo trattare bene il microbiota con l'alimentazione. Noi siamo anche fortunati in Italia perché la nostra dieta mediterranea viene da sempre presa come il punto di riferimento di tutte le diete. No, per il benessere del fisico, per cui abbondanza in verdura, frutta, limitare gli zuccheri, soprattutto i zuccheri semplici, quelli parliamo di farine raffinate, quindi vive cereali, quelli non raffinati, legumi, lei ha citato prima giustamente, ci sono i prebiotici. I prebiotici sono quelli, il concime del nostro vivaio, nel Dai. Senso che non vengono assorbiti. Il prebiotico per eccellenza è l'inulina, che deriva dalla cicoria, quindi non viene assorbito, va direttamente nell'intestino, nel colon, e lì aiuta alla produzione dei buoni batteri. Ma abbiamo la cicoria, la cipolla, i carciofi, i porri, le banane come prebiotici, per cui viva la nostra alimentazione mediterranea. Dottoressa, ma ci sono delle persone che cercano di seguire le raccomandazioni del medico e quindi mangiano frutta, verdura, anzi dico prima verdura, perché suggerite di mangiare più porzioni di verdura rispetto a quelle di frutta, e poi cereali integrali, ma vedono che la loro pancia gonfia, lievita, come se fosse un po' irritata dall'introduzione di questi alimenti, perché c'è una sensibilità nei confronti di alcune sostanze contenute negli alimenti integrali o in alcuni tipi di verdure. Dottoressa Salvioli, sicuramente, allora... Sicuramente, allora diciamo che siamo di fronte a due tipologie di persone diverse. Una che tollera tutto, anche grandi quantità di lattuga, che è quella diciamo un po' più irritante l'intestino, e gli altri che soffrono di un intestino irritabile e quindi un colon più sensibile. Il loro non è corretto eliminare completamente le fibre, anzi loro le devono assumere in quantità graduale, ridotta rispetto alle persone normali, in modo tale da abituare pian pianino la loro flora batterica, che è diversa dalle persone sane, abituarle a questo tipo di alimentazione in maniera graduale, per cui questi fastidiosi gonfiori che si possono verificare si attenuano, sono presenti all'inizio e poi dopo pian pianino noi modifichiamo i nostri batteri con questo tipo di alimentazione, ma bisogna andare per gradi. E probabilmente ci guadagnerà anche l'umore. Dici? La pancia ritorna piatta e l'umore va su, dottoressa Sicuramente. Salvioli. Il problema è che noi arriviamo sempre tardi, quindi certo. Le persone si abbuffano e dicono: il dottore mi ha detto di cambiare tutto. No, bisogna farlo sempre es modus in rebus. Giusto? Allora, la domanda da Angelo da Bologna, quindi un suo concittadino, è: ma possibile che nessuno è ancora in grado di fare diagnosi sul microbiota? E allora, com'è possibile scegliere i probiotici giusti? Ha perfettamente ragione. Diciamo che noi conosciamo i ceppi un po' più importanti per il nostro benessere. Io parlo di terapie antibiotiche che possono scatenare una rivoluzione ecologica nel nostro intestino, e allora lì ci si affida al medico curante o allo specialista che gli indica il probiotico giusto, per cui ci sono alcuni probiotici molto validi per alcune patologie, per il resto purtroppo ne sappiamo ancora in maniera limitata. Allora andate a studiare, dottoressa Salvioli, perché noi abbiamo bisogno di avere delle indicazioni. Intanto grazie per essere stata con noi e per le indicazioni. Sì. Diamo anche, chissà se anche la borsa c'ha un microbiota che lo mette un po' in oggi fermento. Oggi la mette di buon umore. Dai. Non tutta, a Francoforte per esempio il microbiota oggi fa qualche dispetto, Milano invece è positivo, insomma chissà quanto kefir dottoressa ha preso Salvioli. Oggi Piazza Affari, a tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Danacol, grazie agli steroli vegetali, riduce il colesterolo fino al 10% in 3 settimane. Cuore e denari. Allora Nicoletta, prima di partire con l'approfondimento di denari ti racconto due notizie, sempre... Anche al mio microbiota? Sì, e magari sarà contento di sapere che c'è l'impegno del governo a far slittare a giugno 2019 il superamento del mercato tutelato nei settori dell'energia elettrica e del gas previsto dal disegno di legge sulla concorrenza. Ti ricordi ieri certo. Abbiamo parlato, sarebbe entrato tutto in vigore dal 2018. Luglio 2018, invece si slitta ancora, c'era stata anche grande richiesta da parte del delle associazioni dei consumatori, quindi una battaglia che hanno portato a casa. Per cui ribadisco, se vi arriva l'operatore che vi dice cambiate fornitura o modalità appunto di cambiate contratto, perché la legge prevede che dovete farlo, non c'è nessuna fate legge che prevede un bel niente. Seconda cosa invece per introdurre l'argomento di adesso, che approfondirà adesso, lo sai che il Presidente della Repubblica Mattarella ha appena ricevuto stamattina al Quirinale le loro altezze reali Carlo Principe di Galles e Camilla Duchessa di Cornovaglia, quindi il Principe Carlo con Camilla sono andati da Mattarella. Questo per arrivare a dire, ma c'è l'ascensore secondo te per salire da Mattarella? Dovremmo chiedergli di invitarci. Non siamo mai entrate, no. Perché non ci ha mai fatto entrare? Mamma mia, che brutta cosa. Dove eravamo rimasti? Allora, un anno fa circa ci eravamo occupati di una direttiva europea che l'Italia stava recependo e che riguardava le condizioni di sicurezza degli ascensori dei nostri edifici, dei nostri palazzi, degli stabili in cui abitiamo. Una misura che in sostanza impone per gli ascensori in funzione prima del 99 l'adeguamento a standard minimi di sicurezza. La direttiva ascensori è la 33 del 2014. Il governo si stava adeguando, ma con tutta una serie di problematiche che hanno accompagnato questo percorso, perché subito il provvedimento prevedeva verifiche tecniche sugli impianti che in molti avevano pensato di ribattezzare nuova tassa, la tassa sugli ascensori. Ce lo ricordiamo, insomma, quanta polemica aveva creato questo provvedimento che poi è saltato. Nel frattempo il governo se l'è presa molto comoda per ottemperare agli adempimenti europei e a far propria questa direttiva, tanto è vero che l'ha fatto con un provvedimento preso la settimana scorsa, 11 mesi di ritardo, così tanto per gradire. Allora adesso non dovrebbe scattare sostanzialmente nessuna sanzione appunto, neanche procedura di infrazione per l'Italia. Il tema è però capire, adesso che il provvedimento c'è, se il nostro ascensore è vecchio, che cosa dobbiamo aspettarci adesso delle spese straordinarie. Lo chiediamo al nostro ospite di questa mattina, che ringraziamo per essere con noi per la prima volta, Luca Incoronato dell'ANACAM, l'Associazione Nazionale Imprese di Costruzione, Manutenzione e Ascensori. Dottor Incoronato, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno. Grazie. Allora, intanto 800 24 00 24, nel vostro condominio si sta già parlando della manutenzione dell'ascensore, è un tema caldo, l'avete già affrontato in assemblea di condominio, vi siete presi a botte perché qualcuno è d'accordo nel fare questo lavoro, qualcun altro no, perché dice io abito al secondo piano, l'ascensore non lo prendo mai, a me che mi interessa, perché c'è pure questo, per chi non lo prende mai, figuriamoci se si interessa alla spesa condivisa. Ed eventualmente, se invece l'avete già deliberata questa spesa, quanto vi stanno costando eventuali controlli e opere di manutenzione? Se volete ci potete anche scrivere al 349-238-6666, riceviamo gli sms e WhatsApp. È un tema importante. Io mi ricordo che lo scorso anno il funzionario di Assoascensori, che era intervenuto alla nostra trasmissione, aveva detto che le conseguenze di malfunzionamento di impianti non adeguati agli standard internazionali hanno un impatto anche su costi sociali di welfare derivanti dalla cura degli infortuni scaturiti da norme di sicurezza obsolete. Per non dimenticare il fatto molto importante che la mancanza di ammodernamento degli ascensori con oltre 30 anni di attività rende questo mezzo di trasporto un'ulteriore barriera per le persone con disabilità e naturalmente anche per gli anziani. Dottor Incoronato, allora intanto di quante migliaia di ascensori un po' vecchiotti stiamo parlando che abitano le nostre case? Dunque, in Italia stimiamo che vi siano in esercizio circa 1 milione di ascensori. Di questi circa 700.000 sono stati installati prima del 1999, anno in cui sono entrati in vigore le normative europee, in particolare la direttiva europea che ha fissato dei criteri di progettazione e di installazione degli ascensori tra virgolette moderni. Quindi gli ascensori precedenti sono circa 700.000, di questi alcuni sono stati sottoposti a interventi, diciamo, di modernizzazione per portarli ad un livello di sicurezza simile a quello degli ascensori di nuova installazione. Altri invece sono rimasti come, diciamo, con le tecnologie che erano tipiche dell'epoca della loro installazione, quindi hanno, diciamo, proprio per costrizioni tecnologiche hanno delle prestazioni che sono inferiori a quelle degli ascensori moderni. Ecco, quindi riassumendo un po' questi numeri, quanti avrebbero bisogno adesso di adeguarsi alle nuove normative, appunto ai nuovi standard minimi di sicurezza? Sicuramente la maggioranza dei 700.000 impianti, probabilmente 400-500.000 impianti avrebbero bisogno di alcuni interventi mirati, non è che debbano essere, diciamo, completamente sostituiti. Smantellati. Certo. E no, questo è importante. Noi abbiamo evidenziato attraverso le statistiche che abbiamo dai nostri partner assicurativi, abbiamo evidenziato le principali cause di incidente sugli ascensori derivanti proprio dalle liquidazioni delle assicurazioni. Quindi cause che andrebbero rimosse naturalmente con questi interventi mirati. E quali sono? Possono essere rimosse facilmente oggi perché c'è la tecnologia disponibile per rimuovere appunto questi ostacoli. Ci fa qualche esempio così tanto se mi volessi togliere la curiosità? Noi, a parte che l'abbiamo sostituito da un po', il nostro è nuovo di zecca. Detto questo, ecco, se dovessimo fare così come condomino particolarmente pignolo e attento, se volessi chiedere e fare un accertamento in via individuale, quali sono appunto queste cause? Guardi, la prima causa di incidente sugli ascensori vecchi, per noi, per i dati nostri assicurativi, il 45% di tutti gli incidenti ad utenti sono causati dal dislivello che si crea tra il pavimento della cabina e il piano di sbarco al pianerottolo. Sì. I vecchi ascensori. Quindi va fatta solo lì veramente una manutenzione, una taratura della cinghia che trasporta. In realtà, in alcuni casi il problema può essere eliminato con una corretta manutenzione, ma nella maggior parte dei casi c'è bisogno di un intervento, diciamo, di manutenzione straordinaria attraverso l'inserimento di un dispositivo che consente appunto di far livellare la cabina al piano e di eliminare quindi il rischio di inciampo che può determinare cadute che soprattutto per le persone più anziane hanno conseguenze anche gravi. Chiarissimo, quindi questa un'altra causa ricorrente, quale può essere? Insomma, la seconda causa di incidenti agli utenti è l'urto con le porte automatiche in chiusura. La vecchia tecnologia prevedeva, in caso di porte automatiche, che le porte si dovessero ritirare quando incontravano un ostacolo, le cosiddette costole mobili. Oggi è possibile evitare l'urto delle porte automatiche con la persona che entra o esce dall'ascensore attraverso l'inserimento di una barriera di fotocellule sulle costole delle porte che impediscono proprio l'urto, quindi si ritraggono prima ancora di toccare la persona e quindi evitano il rischio di far cadere la persona che transita. Chiarissimo. Allora, abbiamo stabilito le cause più diffuse di incidenti che possono appunto verificarsi a causa di un ascensore malfunzionante. Abbiamo stabilito quanti sono più o meno quelli che avrebbero bisogno in Italia di adeguarsi agli standard minimi di sicurezza. Abbiamo ricordato questa direttiva europea, abbiamo ricordato anche, dottor Incoronato, di come il nostro paese si sia adeguato con grande tranquillità rispetto a questo provvedimento appunto europeo, e lo ha fatto proprio con un provvedimento arrivato a metà marzo. Sì, il 15 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In realtà la direttiva europea, la nuova direttiva europea, fissa dei criteri essenzialmente relativi alla progettazione e installazione di impianti nuovi, non riguarda il parco impianti esistente. Però il governo voleva approfittare della diciamo, necessità di adeguare la norma nazionale di recepimento della direttiva per incidere anche sugli impianti vecchi, perché non lo aveva fatto nel 99 quando era stata introdotta la nuova normativa. Non aveva infatti recepito una raccomandazione della Commissione europea che invitava gli Stati membri ad adeguare il livello di sicurezza dei propri vecchi impianti per portarlo progressivamente al livello di sicurezza richiesto per gli impianti nuovi. In quell'occasione il legislatore italiano non aveva provveduto ad adottare questo provvedimento, aveva provato a farlo negli anni successivi, ma l'operazione non era andata in porto. Adesso che c'era da recepire la direttiva, era il momento, diciamo, giuridicamente anche appropriato per implementare anche un innalzamento della sicurezza dei vecchi impianti, anche perché si arriva al paradosso oggi di avere anche magari nello stesso condominio grande con più scale un ascensore conforme, no, alle ultime direttive, quindi dotato di tutti i comfort e di tutte le sicurezze, e vicino a una scala con un impianto magari degli anni 40 che fa un gradino di 15 centimetri che... eccetera. Senta, devo andare a dare la linea alla regia per il traffico, poi ritorniamo. Quindi mi pare di capire che la norma approvata a metà marzo disciplina gli standard minimi di sicurezza per gli impianti di nuova installazione e nuova costruzione. Esatto. Fa un passo non proprio invece completo rispetto alle macchine che sono in attività prima del 99, quindi quelle che avrebbero bisogno di essere adeguate a questi standard minimi. Proprio perché la norma che prevedeva l'adeguamento progressivo e limitato dei vecchi impianti è stata stralciata a seguito della famosa polemica della E quindi allora, insomma, se l'impianto non è in regola adesso, e ne siamo consapevoli come condomini attenti, anche come amministratori di condominio, che abbiamo la responsabilità anche che l'attività in condominio sia sempre regolare, sia tutta a posto, a questo punto che cosa bisogna fare? Si sta in questa condizione di mancata sicurezza oppure ci si adegua? Ne parliamo tra poco. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Cuore e denari. Lascio il sole parti ed ero con gli altri, tra i bimbi di un colore che è diverso da... Allora, con noi questa mattina Luca Incoronato di Anacam, l'associazione dei manutentori, l'associazione nazionale imprese di costruzione, manutenzione e ascensori. Stiamo parlando di questo provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo, un DPR che è stato approvato appunto proprio di recente e che disciplina le questioni principali relative alla manutenzione ordinaria dei nostri ascensori. In realtà questo provvedimento praticamente ottempera tutta una serie di prescrizioni europee, recepisce una direttiva europea che impone che gli impianti di nuova installazione nei nostri palazzi abbiano determinati requisiti, determinati standard minimi di sicurezza. C'è però in ballo tutta la questione del pregresso. I vecchi impianti, quelli soprattutto che hanno che sono stati installati prima del 1999, che avrebbero bisogno di un po' di refresh, di una sistemata, in che condizioni sono? Adesso molto banalizzato, come sempre mi tocca fare riassumendo le questioni, ma dottore Incoronato, allora, ammettendo che l'impianto in casa nostra sia particolarmente fatiscente o precario, insomma, è obbligatorio o no che si vada avanti appunto con i lavori di manutenzione ordinaria, anzi straordinaria, appunto per fargli corrispondere almeno i requisiti minimi di sicurezza? Al momento non c'è un obbligo di legge. Il governo, quando ha presentato questo provvedimento in Parlamento, ha annunciato un successivo provvedimento con il quale avrebbe promosso appunto l'adeguamento dei vecchi impianti. Che era il famoso provvedimento dell'anno scorso, che era stato fatto passare come la tassa sugli ascensori. Sì, ecco. L'ha stralciato dal provvedimento andato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo, ma ne ha annunciato la predisposizione entro breve. Noi non sappiamo poi quanto appunto il governo si attiverà per proporre al Parlamento un provvedimento di legge che appunto preveda questo adeguamento dei vecchi impianti. Ovviamente nel frattempo impianti che non rispondono più ai moderni standard di sicurezza andrebbero adeguati, soprattutto per una questione di salvaguardia della assolutamente delle persone. Ecco, ma insomma, legge o non legge vi risulta... Ai singoli proprietari decidere come e quando implementare degli adeguamenti che possano eliminare almeno i rischi di incidenti più frequenti. Senta, insomma, rispetto alle due cause che lei ci sollevava prima, il dislivello del pavimento dello stabile rispetto a quello appunto dell'ascensore, se si deve intervenire in quel caso, che tipo di spesa si deve sostenere? Io immagino che chiaramente dipenda anche da quanti piani deve salire e scendere l'ascensore, ci saranno determinate questioni da considerare, ma insomma sono lavori molto onerosi, perché poi ovviamente tante volte in assemblea di condominio anche per piccole spese ci si accapiglia, figuriamoci quando ci cominciano ad essere quelle più impegnative, manutenzioni straordinarie appunto particolarmente rilevanti dal punto di vista economico. Questa è veramente una spesa importante? No, in linea di massima non è una spesa importante. L'ammontare della spesa dipende dall'anzianità e dal livello tecnologico dell'ascensore. Più è un ascensore recente, meno ha bisogno di interventi drastici. Gli interventi, per esempio, per eliminare il gradino che si forma al momento dello sbarco, per gli ascensori più vecchi può richiedere la installazione di un dispositivo particolare denominato inverter, a volte accompagnato anche da un intervento sul motore o sul quadro, ma sono i casi diciamo più impegnativi, ascensori che hanno 40, 30, 40, 50, 60 anni. Ascensori più recenti, pur non essendo conformi alle nuove norme europee, ma che erano stati installati negli anni precedenti, possono subire, diciamo, per essere adeguati hanno bisogno di interventi più impegnativi, limitati. Più limitati. Ma parliamo comunque di diciamo, poche migliaia di euro che poi suddivise tra i diversi condomini, si tratta di spese che rispetto all'eliminazione del rischio dal punto di vista teorico il suo ragionamento non fa una piega, dal punto di vista pratico poi quando in condominio di spese ce ne sono tante, anche questa che non è proprio dirompente, obbligatoria, diciamo, viene ovviamente rinviata. Detto voglio questo, poi ricordare, mi scusi, che questo tipo di interventi può usufruire della detrazione IRPEF. Bravo, infatti fino lì volevamo dicembre ammonta al 50% della spesa, quindi non solo deve essere suddivisa a tutti i condomini, ma poi negli anni viene detratto il 50% dell'importo, quindi alla fine parliamo veramente Vi chiedono informazioni gli amministratori di condominio rispetto a tutto questo ginepraio legislativo attorno alla questione degli ascensori? Sì, certamente, ma poi sono gli stessi manutentori che segnalano alla proprietà l'opportunità di intervenire per adeguare il livello di sicurezza dell'impianto. A volte sono anche gli ingegneri degli organismi di ispezione che ogni due anni per legge devono andare sull'impianto e verificare il suo stato di sicurezza. Quindi diciamo, alla proprietà arrivano input in tal senso. Poi ovviamente l'assemblea di condominio è sovrana e quindi se non si raggiunge una maggioranza nell'assemblea questi lavori non vengono eseguiti, con rischio poi però diciamo della proprietà stessa, perché nel momento in cui si verifica un incidente sull'impianto il primo responsabile è il proprietario e per lui l'amministratore in prima persona, in prima battuta risponde, poi diciamo custode dell'impianto dal punto di vista civilistico lui risponde di tutti i danni arrecati dall'impianto alle persone. Certo. La persona che si infortuna fa causa al condominio in prima istanza. Non ci fa piacere essere protagonisti di queste vicende mai in assoluto, figuriamoci rimanere chiusi in ascensore, magari insomma ecco avere qualche altro danno. Senta, 30 secondi per chiarirci che tipo di illuminazione deve esserci dentro questi impianti, anche questo è tema di corrispondenza rispetto a determinati requisiti standard, l'illuminazione all'interno dell'ascensore. Per i nuovi impianti è obbligatoria la luce di emergenza che ovviamente si attiva quando dovesse venire meno l'energia elettrica, l'alimentazione elettrica dell'impianto, e con il rischio che persone intrappolate possano rimanere non solo intrappolate ma anche al buio. Un altro obbligo che è previsto per gli impianti nuovi è quello di avere un collegamento telefonico tra la cabina e un centro di soccorso che fa partire poi i soccorsi appunto. Quindi non basta più l'allarme, addirittura sempre più moderni questi ascensori. Dottor Incoronato, per adesso grazie per essere stato con noi. Quando il governo approverà questo famoso provvedimento per disciplinare un po' la situazione degli ascensori di cui si è dimenticato, ne ritorneremo a parlare molto volentieri con lei. Intanto grazie, buona giornata. Grazie. Torniamo domani. Allora sì. Io domani ti dico che viene Gianni Lupotto qua a farci un po' di scuola, di investire in